Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Leopoldo Tosi continua a scriverci, lo ringraziamo, gliene siamo molto grati e siamo d'accordo con lui, simpatizziamo con lui. E per finire vogliamo fare i nostri auguri al nostro amico Natale Galli, che martedì, dopodomani, alla libreria Feltrinelli di via Manzoni 12 inaugura la sua mostra alle 18, Quadri e riquadri. Non è priva di un suo interesse.